9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno, buon inizio settimana, lunedì 4 di aprile, cari radioascoltatori. Il tema della puntata di oggi sarà ancora una volta un classico per coloro che seguono con una certa continuità questa voce da papero che vi tiene compagnia dalle 9 alle 10 la mattina, perché il tema è ancora una volta quello delle tasse. Nel senso che da domani il mio caldo consiglio a tutti voi che siete in ascolto è quello di andare nelle librerie e procurarvi una copia di questo libro che è in uscita dal 5, il titolo è Tassati e Mazziati, le tasse nascoste quando lo Stato ci mette le mani in tasca due volte. La casa editrice è Spelling e Kupfer e l'autore è uno degli ospiti più fissi e ricorrenti ai nostri microfoni, cioè Giuseppe Bortolussi, il segretario della CGA di Mestre, che tante volte ci ha aiutato in questi anni. Con dei dati innanzitutto, perché anni fa, quando mise mano a questa responsabilità a cui lo hanno chiamato gli artigiani di Mestre, penso bene, vista lo storico difetto nella elaborazione, produzione e interpretazione di dati del nostro dibattito pubblico, di dare una mano innanzitutto, comunque la si pensi, offrendo appunto interpretazioni di dati che consentono di capire meglio la realtà economica del nostro paese. Io, prima di ancora salutarlo, augurargli buona giornata e ringraziarlo per questo ennesimo contributo che ci offre, dico solo in un minuto e mezzo, ricapitolo un pochino come la penso e perché questo libro mi sembra straordinariamente utile. Parto da ciò che ieri mi ha lasciato molto perplesso, e cioè, per chi avesse comprato, letto il Corriere della Sera di ieri, l'anticipazione di questo documento dell'Agenzia delle Entrate, alla quale ieri il Corriere della Sera ha dedicato la sua apertura con un titolo che diceva fisco evasione al 38%, al sud si arriva al 66%, ma il gettito sottratto è più alto al nord. Ecco, si tratta di un aggiornamento con tanto di carta geografica dell'Italia, con la quale l'Agenzia delle Entrate del dottor Befera aggiorna la stima, che poi è sempre la stessa nella realtà dei fatti, perché queste percentuali così roboanti, il 38%, il 66%, nella realtà che cosa dicono? Dicono che sul totale delle imposte raccolte l'Agenzia delle Entrate stima che per ogni 100 euro di imposta incassata 17,8 euro vengono sottratti. Al 38,8%, per fare il titolone, si arriva al netto delle imposte raccolte dal sostituto d'imposta, tanto per essere chiari, per puntare il dito sempre contro autonomi e professionisti. E in più, quando c'è la geografia territoriale della stima dell'evasione dell'Agenzia delle Entrate, che naturalmente concentra le percentuali più alte di evasione, come è noto, non per questioni antropologiche, ma per questioni che hanno a che vedere con fattori di lungo periodo, quella che si chiama la pet dependence, per chi è un cultore delle teorie economiche, cioè del fatto che i fenomeni economici sono figli di fattori di lungo periodo, storici, culturali, eccetera, e quindi per questo è nel sud che si toccano le percentuali più elevate. L'Agenzia delle Entrate però dà poi una chiave interpretazione e dice che c'entra, sì certo, al sud si raggiunge anche 66 euro di imposte sottratte allo Stato per 100 pagate, però siccome i redditi sono molto più bassi ed è molto più difficile accertarli, l'ammontare maggiore dell'evasione è comunque al nord il vero colpevole, dove le percentuali di evasione, la propensione a non pagare tasse è molto più bassa. Ma che c'entra? I redditi sono molto più elevati e dunque è molto più elevato l'ammontare di ciò che viene sottratto allo Stato. Ora, tutto questo per dire che si tratta del solito aggiornamento della consueta stima per la quale allo Stato mancano 120 miliardi l'anno, perché se voi fate la percentuale del 18% da sommare ai 100 euro raccolti, su 650 miliardi di imposte raccolte ottenete sempre la solita cifra. Quindi innanzitutto si tratta di un rimescolio di cose già note, punto numero uno. Punto numero due, si tratta di un aggiornamento di basi induttivi che lo Stato fa sulla base di redditi presunti, cifre d'affari presunte, imposte che considera dovute, e questo è il dannato meccanismo induttivo che serve a indurvi a credere ancora una volta che naturalmente lo scandalo vero siamo noi italiani, lo scandalo vero siamo noi evasori, la vergogna civile è questo popolo che ce l'ha nel suo DNA di sottrarsi a qualunque obbligo dovuto a ciò che la Costituzione chiede a ciascuno di noi. Ecco, in realtà questa maniera per dividerci, per animare una vera guerra sociale, per cui ciascuno è ispirato a credere che l'evasore sia quello di casa a fianco della propria, non dice neanche una parola su ciò che, se leggete per esempio un report che è uscito nel dicembre dell'anno scorso, del 2010, a cura di Banca d'Italia, sulle ragioni storiche della quella che si chiama tecnicamente la tax compliance, cioè la propensione a aderire e a rispettare le regole dell'ordinamento italiano, troverete che la Banca d'Italia è molto più equilibrata, e cioè dice innanzitutto che i fattori sono appunto quelli che ho ricordato di lungo periodo. Ricorda che il problema dell'evasione e dell'elusione è un problema storico del nostro paese e che comunque è in contrazione, è in, sottolineo, contrazione dal punto di vista storico, non espansione come ogni settimana questi inviti che vengono dall'Agenzia delle Entrate, questa campagna propagandistica dello Stato vi invita a credere. Ripeto, è in contrazione e non in espansione, in una prospettiva storica di lungo periodo, e troverete che la Banca d'Italia ammette per esempio che a tutto questo poi concorre la complessità, la natura vessatoria delle norme dello Stato, tutte cose che invece naturalmente negli studi dell'Agenzia delle Entrate non trovate. Concludo dicendo, il libro di Bortolussi, ora passo naturalmente, mi ritiro in buon ordine e presento a Bortolussi e l'ospite contraltare che lo affianca per parlare del suo libro. Nel libro di Bortolussi invece, Tassati e Mazziati, troverete ottimi esempi, perché sia dal punto di vista dei redditi del dipendente, sia dal punto di vista delle diverse tipologie di imprese, il merito del libro di Bortolussi è quello di fare esempi concreti con diverse tipologie, quindi di chi è un single, le famiglie monoreddito, bireddito, per carico familiare, per diverse tipologie di impresa, e farvi toccare con mano quanto diversa è la realtà rispetto a queste chiacchiere propagandistiche dell'Agenzia delle Entrate, e quanto sia scandaloso che lo Stato pretenda che i cittadini si inginocchino e si vergognino per questa loro mancata corresponsione del dovuto, quando lo Stato poi si dimentica di dirvi che i giorni di lavoro necessari per pagare le tasse nel 1980, ci ricorda Bortolussi, erano 115, dovevamo lavorare 115 giorni l'anno per adempiere il nostro obbligo fiscale nell'80, nel 90 quei 115 giorni sono diventati 140, nel 2000 sono diventati 152, nel 2010, dopo tanti anni al potere di questi cari signori che i voti li hanno presi promettendovi di abbassare le tasse e la spesa, vero? Sì, certo, però peccato che nel 2010 i giorni di lavoro che abbiamo dovuto impiegare per pagare le tasse sono arrivati al record di 156, ripeto, erano 115 nel 1980. Se invece dovessimo pensare al numero di giorni di lavoro per cittadino italiano necessario a coprire integralmente la spesa pubblica, poiché sono sempre al potere questi che vi hanno promesso che la diminuivano la spesa pubblica, ebbene il numero di giorni di lavoro necessari per finanziare la spesa pubblica è passata da 140 giorni di lavoro nel 1980, nel 1990 erano 182, nel 2000 si abbassarono a 155, vedi, prodigi degli sforzi necessari con le mani messe nelle tasche degli italiani per entrare nell'euro, ma nel 2010 da 155 del 2000 sono passati di nuovo a 174 giorni. Ecco, forse lo Stato dovrebbe ricordare di dirvi che ciò in cambio di cui vi chiede l'adempimento e la vergogna perché non ne pagate abbastanza di tasse sono queste belle cifre qui, le cifre di un ladro rapinatore inefficiente. Questo è il mio inizio, come vedete, come al solito abrasivo, ma ora mi ritiro perché ho già detto la mia. Abbiamo ospiti Giuseppe Bortolussi, che ringrazio e saluto, buongiorno. Salve. E abbiamo come contraltare, ma è anche lui un'ottima voce ricorrente alle nostre trasmissioni, quella di Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità. Grazie a Rinaldo Gianola perché ha sopportato questa introduzione senza digrignare i denti. Buongiorno a voi. Allora, Bortolossi, io direi di fare al contrario, perché Rinaldo Giannola, posso testimoniarlo, quando l'abbiamo chiamato per il libro lo aveva già, perché Rinaldo Giannola è una persona di quelle che i libri leggono e si documenta, e quando critica, critica perché non è d'accordo. Rispetto a questa impostazione, che io ho riassunto in maniera garibaldina, e Bortolossi è meno, diciamo, tagliente nei toni, ma la sostanza è più o meno analoga alla mia. Che cosa non la convince Giannola? A me non mi convince, perché questi dati, diciamo, sull'evasione fiscale, sono d'accordo con te che possono essere tirati da una parte o dall'altra e poi alla fine possono essere, in qualche modo, essere semplificati, essere sempre gli stessi dati. Però quando si parla di tasse, di evasione fiscale, di elusione, di soldi che mancano allo Stato, io la metterei non come un fenomeno sociale, diciamo tutti dei mascalzoni e così via, ma la metterei in politica, perché penso che oggi la questione delle tasse, così come ieri, assieme alla questione della dignità del lavoro, siano fattori centrali che attengono non al comportamento delle persone in Italia, ma alle basi fondamentali della democrazia. Allora, io penso che, se è vero, tu li hai contestati, ma se sono veri i dati delle agenzie delle entrate, che sono, ripetono in qualche modo, dati già diffusi, anche se li hanno presentati ieri in modo diverso, se sono veri i dati della Guardia di Finanza, che non più tardi di un mese e mezzo fa ha detto che l'anno scorso sono mancati 50 miliardi al fisco, se è vero, diciamo, che c'è una tendenza generalizzata, dico, quindi non di qualche settore o di altro, a, come dire, sfuggire a volte alle regole della convivenza civile, compreso quello di pagare le tasse, beh, qui ci sono delle responsabilità che sono certo storiche, perché non è una cosa che nasce da ieri, ma ci sono delle responsabilità politiche. Questo è un governo, diciamo la verità, che sono andati al governo, ha vinto le elezioni con il No Tax Day. Vi ho ricordato le manifestazioni in Piazza del Duomo? Io c'ero con Berlusconi, Fini, tutti, erano tutti quanti lì, No Tax Day. Io mi ricordo quando ho vinto le elezioni la volta scorsa dicendo vi toglieremo l'ICI, vi taglieremo le tasse, davanti alla platea degli imprenditori, e tutti che applaudivano. Poi la realtà dei fatti è completamente diversa. Certo, abbiamo un premier che è sotto processo per evasione fiscale, per elusione, però gli italiani sono costretti a pagare più tasse, perché questo governo, questa maggioranza, e questa è apolitica, non ha fatto assolutamente nulla per cambiare le sorti e le condizioni dei contribuenti italiani, dico tutti. Poi, se vogliamo, possiamo fare delle polemiche sulle varie categorie, ma questa è la condizione generalizzata. La destra in Italia, questo governo di destra e chi lo ha appoggiato, è filosoficamente impossibilitato a ridurre le tasse e a fare una campagna che io ritengo un dovere civile e istituzionale contro l'evasione fiscale. Questa è la condizione di fondo, secondo me, per ragionare oggi sulle tasse in Italia. Bene, questa bella premessa di Giannola, il cui giudizio politico io in realtà condivido. Poi io penso che si mette mano abbattendo la spesa e abbattendo le tasse, alla tedesca, per dire, più che con l'evasione fiscale. Quella seguirà dopo, perché la spesa e la pressione fiscale la si può abbattere nel breve, e gli effetti sono nel breve di liberare energia accrescendo il PIL e quindi accrescendo anche poi il gettito. Invece nel medio lungo, siccome i fattori sono di medio lungo periodo, quelli della diversificata bassa propensione all'adesione agli obblighi fiscali, nel medio-lungo periodo lì ci sono fattori storici, culturali, la semplificazione dell'ordinamento e così via, che possono contribuire. Io ho sempre creduto poco, insomma, alle maxi campagne di evasione nel breve, che cosa hanno significato sotto il centro-sinistra come sotto il centro-destra? Hanno significato mano libera ai mastini della guerra, ai metodi per cui nell'Agenzia delle Entrate si fa carriera a livello territoriale per obiettivo di ciò che si terroristicamente trasmette al contribuente come cifra dovuta, e tanto vale immediatamente transare, perché altrimenti tanto nel contenzioso tu non hai diritti paritari. Ecco, queste metodologie a cui si finisce per applaudire come lotta all'evasione, a me sembrano imbarbarimento intollerabile del rapporto tra cittadino e fisco, e Stato. Qui abbiamo pacchi di mail che sono quelle che arrivano a tutte le associazioni d'impresa, che ci testimoniano come contribuenti, microimprese, imprese più grandi, eccetera, eccetera, vivano nel terrore oramai di queste metodologie di accertamento su base induttiva, per cui se tu hai comprato 15 anni fa un cespite che poi magari è diventato obsoleto, dopo 3 anni non avevi più, ti arriva la contestazione che nei tuoi libri non ce l'hai per 15 anni e c'è un multiplo per 15 anni di ciò che ti si induce a pagare come imposta quando tu l'hai mandato fuori uso. Questa è la regola, non è diventata più l'eccezione, quindi invece di battere le mani dovremmo puntare le nostre armi dell'attenzione innanzitutto come operatori dell'informazione, ma dando a questo punto sostegno a chi ci ascolta e dicendo ribellatevi quando arriva qualcuno, vi si mette nell'azienda e dice o paghi subito oppure qua per mesi ti blocchiamo tutto, perché questi sono i metodi e si fa carriera così, per obiettivo raggiunto e induttivamente comunicato al contribuente come ciò che gli conviene dare, perché altrimenti sarà peggio per lui. Molti pensano che io faccia campagna per l'evasione, è il contrario, io voglio semplicemente che l'articolo 23 e 53 della Costituzione siano rispettati. Bortolussi, come rispondiamo a Gianola? Beh, intanto ringrazio l'Unità perché è uno dei primi quotidiani che ha pubblicato una recensione del libro e quindi dimostra molta apertura in questo senso. Io a Gianola voglio spiegare una cosa, come agli ascoltatori. Io ne faccio una questione quasi filosofica e logica, cioè io nel mio libro spiego questo, che se tu non capisci bene il fenomeno dai le cure sbagliate. Qual è il fenomeno? Il fenomeno, e qui io la chiamo una piccola rivoluzione copernicana, oppure molto più semplicemente mettiamo l'accento su un'altra cosa, tutti, lo Stato in primis, mette l'accento sull'evasione, come fosse il male più grande. L'evasione è un male e va combattuta, e in questo senso, distinguendomi un po' da te, Oscar, io vedo che è migliorato molto il sistema di lavoro dell'Agenzia delle Entrate, sono anche più corretti di una volta, te lo assicuro io. Guarda, un sistema che è migliorato, però il problema sta alla base, è filosofico. Vedi, noi di tasse, imposte, tasse, tributi, pressione tributaria ne paghiamo più degli altri paesi, più di Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, Spagna, Paesi Bassi, Austria, parlo di pressione tributaria. Ne paghiamo di più e però tutti dicono che c'è sta grande evasione, c'è come in tutti gli altri paesi, ce n'è di più, ma mi spiego, il problema vero non è l'evasione in questo paese, il problema vero è la spesa pubblica, è un prius logico, mi spiego? Non si capisce nulla se si continua a passare subito il discorso ma c'è qualcuno che evade, e faccio sempre questo esempio, lo faccio anche a Gianola per farmi capire, c'è un condominio Italia e un condominio Germania, nel condominio Italia i vetri sono rotti, le scale sono sporche e la luce non c'è, non c'è la luce, però si paga 150 di spese condominiali, sono 6 appartamenti, farebbe 900. Nel condominio Germania sono sempre 6 appartamenti, si paga 100 di spese condominiali, però c'è la luce, le scale sono pulite, i vetri non sono rotti. Allora il problema è che nel condominio Italia qualcuno dice sì, però c'è quello che evade, sì, c'è uno che evade e fa mancare 150, quindi l'amministratore del condominio Italia invece di avere 900 a 750, però ha sempre di più di quello tedesco e i vetri sono rotti e le scale sono sporche, questo è il problema. In Italia noi paghiamo più tasse degli altri e abbiamo dei servizi peggiori, queste cose sono oggettive, quindi primo step logico, prendiamocela con l'amministratore che avendo più soldi a disposizione di quei paesi europei che ho citato e anche degli Stati Uniti, dà dei servizi nettamente peggiori. E quindi non si può bypassare questo ragionamento che è il primo. Secondo, poi viene il discorso, facciamo pagare anche a quell'inquilino che fa il furbo e non paga. Ma viene dopo anche logicamente, perché se quell'amministratore è incapace e incompetente di per sé e nasconde la verità citandomi e mostrandomi sempre quell'evasore delle spese condominiali, anche se io recupero quei 150 da quell'evasore, se li mangia li spende male, è un pozzo di San Patrizio, questa è la rivoluzione copernicana di cui parlo io, un diverso accento, perché se no la cura sarà sempre sbagliata, recupereremo soldi dall'evasione e invece di andare al cittadino onesto che già paga una pressione reale, come dimostro nel mio libro, superiore al 50%, perché noi paghiamo, non è che non paghiamo, paghiamo più degli altri paesi. Gli italiani, è vero che qualcuno non paga e qualcuno paga anche per loro, verissimo, verissimo, però è altrettanto vero che l'amministratore italiano ha soldi a disposizione più di Francia, Germania e li spende male, questo è il vero tema, e se ne dai di più li spenderebbe ancora male, c'è da risolvere prima questo problema. Quindi l'evasione io non nego che ci sia, dico che la combattiamo, ma se prima non sistemiamo il lato della spesa, che la propensione marginale alla spesa in Italia è molto alta, perché appena si hanno i soldi in più si spendono e non li si restituiscono a quel contribuente onesto che per anni paga anche per gli altri. Quindi questo giochetto logico, questo cortocircuito è un gioco di prestigitazione che fa lo Stato, invitando la gente a prendersela con l'evasore e basta, allontanando da sé le colpe, attribuendo tutte le colpe delle disfunzioni, del cattivo funzionamento, quel famoso discorso che a un certo punto ha fatto un ministro: se manca la benzina, la polizia, l'ambulanza, prendetevela con gli evasori. No, bisogna prendersela con questo Stato che, pur avendo più soldi di Francia, Germania, Spagna, Olanda e Belgio, li spende male e fa in maniera che le cose non funzionino. Spero di essere stato chiaro, poi sui dettagli parliamo finché volete. Chiarissimo, per dare un numero di ciò che diceva adesso Bortolussi, pressione tributaria, quindi al netto dei contributi sociali, in Italia 30% del PIL, in Germania 24% del PIL, 6 punti di differenza, ma se andiamo a vedere la spesa sociale al netto delle pensioni e dei trasferimenti per la disoccupazione, quindi la spesa sociale per altro, tranne che pensioni di disoccupazione, in Italia è pari solo al 9,4% in termini di punti di PIL, la spesa sociale. In Germania la spesa sociale 13,7%. L'esempio concreto di come con meno risorse, pressione tributaria 6 punti in meno, in realtà ci sia una performance molto maggiore in termini di efficienza, cioè appunto di spesa sociale, ciò che giustamente sta a cuore a tanti italiani che la considerano una delle espressioni più alte della capacità pubblica di adempiere al dovere per cui siamo collettività, ed è giusto anche ispirare alla progressività il sistema fiscale. Giusto, per me non troppo, ma c'è scritto in Costituzione. A tra poco, pubblicità. Buongiorno, eccoci tornati in studio. Prima di ritornare a ragionare con Giuseppe Bortolussi, l'autore del libro di cui stiamo parlando, che esce domani in libreria, Tassati e ammazzati, e con Rinaldo Gianola, che ci aiuta da un altro punto di vista a ragionare intorno all'efficienza dello Stato per ciò che prende e pretende dai contribuenti, e l'inopportunità o l'opportunità di continuare a dividerci in questa esasperata guerra sociale da anni intorno all'evasione. Quindi la colpa di tutto innanzitutto dell'evasore al mio fianco invece dell'inefficienza nel frattempo dello Stato. Una riflessione, una pausa, un secondo per capire in un altro grande paese europeo che cosa sta avvenendo. È un paese europeo che per anni ci eravamo abituati a considerare un esempio ruggente di crescita post-industriale, sto parlando della Gran Bretagna, quindi il posto dove si era accentrata la piattaforma finanziaria di riferimento in termini europei come contraltare transatlantico a quella americana. Poi esplode la crisi degli intermediari finanziari, il deficit va a 11-12 punti del PIL, c'è uno Stato che però con elezioni che non attribuiscono un mandato chiaro, tant'è vero che si fa un governo di coalizione dove i Tories di David Cameron devono allearsi con i liberal democratici, molto di sinistra per chi conosce la loro base, o abbastanza di centrosinistra insomma di Cleggs, eppure questo governo mette immediatamente mano a un piano durissimo di tagli del deficit pubblico, piano pari più o meno a 8-9 punti di PIL in un triennio. La crescita l'anno scorso sorprende perché è abbastanza buona, quest'anno è in forte rallentamento. Purtuttavia chiediamo a Leonardo Maisano, che è corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, mentre qui continuiamo a dividerci intorno alle cifre dell'evasione fiscale, però la spesa cresce e la pressione è record, Qual è l'impostazione che il governo britannico ha dato, visto che qui ad aprile tutti sono tenuti, i membri dell'Unione, a presentare un piano nazionale di riforme, di quello italiano si è perso traccia, eppure entro poche settimane va presentato. Io ho qui sul mio computer un documento che ho letto una settimana, The Plan for Growth, cioè l'equivalente britannico. Sono due capitoli in cui il primo ha 87 proposte concrete e il secondo 287. C'è da rimanere senza parole, ma questo è il mio giudizio. Chiedo a Maisano, sulle imposte, sulla piccola e media impresa, qual è la filosofia del governo britannico in corso per crescere, malgrado la necessità di mettere mano durissimamente al rigore nella finanza pubblica? Ma la scelta del governo inglese è stata abbastanza evidente, nel senso che a ottobre-novembre ha avviato il cosiddetto spending review, cioè un piano di tagli sul quinquennio dovrebbe in realtà portare all'azzeramento del deficit, che come dicevi giustamente è del 10%, quindi manovre da 80-90 miliardi di sterline nei prossimi 4-5 anni, e questo, se questo è stato, come dire, l'intervento sul fronte dei tagli, la finanziaria, il budget di qualche giorno fa ha definito quella che sarà invece la strategia della crescita, che è concentrata sostanzialmente sul rilancio dell'impresa in generale, della piccola media in una misura più mirata, anche se non così significativa, perché la piccola media impresa in questo paese non è paragonabile ovviamente a quella italiana, certo. Quindi il punto centrale è la riduzione dell'imposta sulle imprese, che passa dal 28% attuale al 26%, dal 28% del 31 marzo al 26% del 1 aprile, nel senso che qui è partito l'anno finanziario adesso, e poi progressivamente calerà di un anno, di un punto all'anno, per raggiungere il 23%, che è l'aliquota più bassa dei paesi del G7. Perché esplicitamente, quando si arriva proprio nelle prime pagine di questo documento, quando si dice il piano della crescita, ambizioni e benchmark misurabili, i primi tre punti sono l'implementazione dell'obiettivo creare il più competitivo sistema fiscale nel G20, il più basso sistema di pressione sulle aziende nel G7 e tra i più bassi nel G20, il sistema fiscale più semplice e meno vessatoria, e il sistema meglio in grado di attirare headquarters delle aziende in tutta Europa. Ecco, questo, pensate, è il primo obiettivo, il primo strumento della crescita ravvisato dal governo britannico, che pure deve fare un turnaround molto energico della sua finanza pubblica. Domanda: continuano a sbagliare come al solito loro? Chi lo fa e offre, vi ripeto, la cosa incredibile di questo documento è che è articolato per punti in cui concretamente si entra nel merito, in poche righe, e si dice questo e faremo, lo faremo in questo e questo modo. Un po' diverso da come si fanno i documenti pubblici, tanto quelli previsionali quanto quelli nel nostro paese. Ma sbagliano loro, oppure invece è giusto adottare la filosofia del tutta colpa degli evasori e nessuna attenzione a quanto cresce la spesa e quanto è efficiente nel nostro paese? Giannola? Ma no, non è che sbagliano loro, però sinceramente non farei un paragone tra la Gran Bretagna e l'Italia, perché la storia recente della Gran Bretagna è stata profondamente diversa. Ma no, ma infatti io l'ho scelta perché adesso è disastrata in ginocchio, cioè deve tagliare molto, ecco. Se tu vai in Inghilterra, oggi l'Inghilterra è un paese in ginocchio, in grossissima difficoltà, i cittadini inglesi certamente non sono contenti della situazione in cui si trovano. Insomma, i governi, diciamo, conservatori e laburisti che si sono succeduti negli ultimi 20 anni hanno, secondo me, fatto più o meno le stesse scelte economiche, quindi insomma lì c'è un periodo storico che è andato in una determinata parte, hanno, come dire, privilegiato la piattaforma finanziaria mondiale di Londra a scapito, secondo me, di un tessuto industriale produttivo di livello internazionale che in larga misura gli inglesi hanno perso. Quindi tu dici, deriva un po' da questo, dal fatto di avere politiche comuni dai tempi di Blair in poi, che continuano ad avere come primo obiettivo per la crescita almeno tasse. Un senso di culturale, no? di profondo, cioè la tendenza politica di Blair, diciamo, non era, nonostante quello che sia stato detto anche a sinistra, la terza, la quarta via, queste scemenze, era una politica sostanzialmente moderata, conservatrice, che non cambiava che non invertiva il senso politico storico di quello che era successo 10 anni prima. Questa è la sostanza dei fatti. Io però vorrei ritornare, se mi ma il dire meno tasse per crescere, non per interromperti, secondo te è moderato e conservatore? Oppure mai che anche in Italia i sindacati su questo, come Confindustria, dicono qui ci vogliono meno tasse, ma molte meno tasse sul lavoro e imprese? Favorevolissimo le meno tasse per crescere, assolutamente, però il ragionamento che tu e anche Bortolussi facevate prima, cioè non potete chiederci di battere, di combattere l'evasore che ho accanto a me, perché questo si può fare esclusivamente quando lo Stato sarà funzionante, perfetto, efficiente, non sarà vessatorio nei miei confronti, è un ragionamento che comprendo, ma secondo me giustifica poi invece l'evasore, cioè dicendo va bene, allora io mi metterò a pagare lealmente le tasse solo quando questo Stato dimostrerà efficienza e lealtà nei miei confronti. È un discorso che un po' si morde la coda, insomma, non ne usciamo più da questo livello. Io penso che bisogna tornare un po' al rispetto sia da parte dello Stato sia da parte del contribuente, e ci siamo dentro tutti, a dei rispetti dei principi costituzionali, cioè si fa la propria parte secondo quello che dobbiamo dare in questo momento, altrimenti questo paese va a rotoli sostanzialmente, ragazzi, cioè da un momento all'altro noi continuiamo adesso ad accusarci di tu sei un evasore, no, tu paghi di più, io pago di meno, non si va da nessuna parte, cioè io penso davvero che questa questione dell'evasione, delle tasse, della giustizia fiscale, con adeguata, accompagnata da una battaglia per il lavoro dignitoso, soprattutto per le nuove generazioni, siano fattori fondamentali della tenuta della vita democratica del Paese. Non possiamo adesso riconoscere, come avete fatto, che siccome lo Stato è inefficiente, largamente inefficiente per molti, allora l'evasore è giustificato. Perché questo è il discorso berlusconiano, che diceva a un certo livello di tassazione l'evasione fiscale è giustificata. No, l'evasione fiscale, mi dispiace, non è giustificata. Neanche quando... Questa è una differenza filosofica. Per me... Ti dico solo una cosa. Sì. Io, il discorso che hai fatto tu mi piace molto, sai perché? Perché è un discorso da estremista. E a me piace il discorso da estremista in questi momenti. Cioè, nel senso che questa melassa consociativa per cui tutti dobbiamo stare assieme e essere d'accordo è una roba aberrante. Però l'unico che veramente si deve incavolare in questo paese per la tassazione è il lavoratore dipendente, che purtroppo politicamente e socialmente non ha più nessuno che lo rappresenta, che rappresenta la sua incazzatura che deve essere fondamentale. Questa è l'unica categoria in questo paese che ha diritto a ribellarsi alle tasse. E spero che Bortolussi almeno su questo sia d'accordo. Figurati, io sono per l'abolizione dell'istituto d'imposta, però non sono d'accordo perché chi scommette su se stesso in questo paese ed è microimpresa o impresa individuale, quello è un martire, molto più del lavoratore dipendente che per una pressione fiscale comunque da rapina ha comunque dei diritti molto meglio garantiti. Invece chi rischia se stesso deve essere in condizione di essere in ginocchio, di vergognarsi e di non riuscire a fare tutto quello che può fare. Rinaldo, sai perfettamente, sto parlando di artigiani, di commercianti eccetera eccetera, che questa è la verità, la campagna per la quale si identifica quei milioni di italiani che sono la forza di questo paese e non la debolezza, come abbiamo sempre dicendo, più ne chiudiamo di microimprese meglio è, perché aumentiamo l'efficienza della nostra catena produttiva e distributiva, sai perfettamente a chi mi riferisco, perché ecco, invece io penso che quella che è la grande animaccia che ha consentito a questo paese di restare in piedi, di fare il miracolo del calabrone, per cui comunque facciamo il 20% dell'esportazione, dei 340 miliardi di euro di esportazione, lo facciamo con la piccola impresa, il 20%, in Germania è il 4% con la piccola impresa, si deve al fatto che ci siano alcuni milioni di italiani che, io mi dico, a fianco, non più o meno, ma a fianco dei lavoratori dipendenti sono massacrati, con la differenza che i lavoratori dipendenti hanno qualche residuo diritto, non proprio secondario, mentre loro hanno solo quello di chiudere e vergognarsi. Il lavoratore dipendente però il diritto se lo paga. Certo, ma chiaro che se lo paga, ma non dico di no, ma ci mancherebbe. E se lo strapaga. Infatti io sono proprio contrario alla guerra sociale tra le due cose. Quegli altri, per quanto paghino, dicono sempre che evadi. Dopodiché, io lo vedo in primis con gli accertamenti su di me. Io mi trovo a dover giustificare redditi che non ho realizzato. Questa è la verità. Bortolussi mi dice, è migliorata la macchina. Io... per quello che vedo io, è diventata più efficiente nel meccanismo impositorio. No. Comunque, posso fare un'ultima domanda al volo, perché poi andiamo sull'informazione serale a Maisano e poi ripartiamo da Bortolussi. Il tema dell'evasione esiste o non esiste in Gran Bretagna oppure no? Sì, esiste il tema dell'elusione più che dell'evasione, nel senso che c'è una innanzitutto il sistema fiscale inglese è estremamente farraginoso, tu parlavi di semplicità, giustamente, il sistema fiscale inglese non è affatto semplice, è estremamente complesso, il piano della crescita partirà proprio da una semplificazione di un sistema che si è avvitato su se stesso per cercare di mantenere certi vantaggi e certe elasticità e che non riesce più a farlo, quindi ha portato, per dire, l'aliquota marginale al 50%, ma mantiene ancora dei buchi nel suo sistema che devono essere sistemati. Quello che vorrei dire, due sole considerazioni su quello che si è detto: secondo me questo paese non è ancora in ginocchio, perché ha sempre dimostrato di avere una flessibilità e capacità di rimbalzo straordinaria. Il secondo punto è che l'Inghilterra certamente con questo piano si avvierà su un fronte di competizione, di concorrenza fiscale nell'Unione Europea. Su questo non c'è dubbio. Questo era il significato fondamentale del piano di crescita, secondo me. E infatti, tutto ciò che non piace agli armonizzatori, che sono convinti che l'Europa deve invece armonizzare basi, aliquote e marginali. Io sono per la linea invece della più alta competizione, che almeno spinge i più inefficienti a dover fare i conti con chi a quel punto sceglie di votare con i piedi e di andarsene dove le tasse sono più basse per maggiore efficienza. Strade. Eccoci in studio, stiamo parlando di Tassati ammazziati, Sperling e Kupfer, l'autore Giuseppe Bortolussi, al quale poi lasciamo il commento di tanto per un minuto telefonate agli ascoltatori. Cominciamo rapidi con Luca da Ferrara. Prego Luca. È in ascolto Luca? Sì, pronto. Buongiorno. Ecco, dica la sua rapidamente, prego. Ma rapidamente, molto semplice, nel mio percorso personale e lavorativo io sono stato in Italia imprenditore, artigiano, dipendente ed oggi mi trovo ad operare in Spagna da qualche anno. E molto semplicemente, cioè io vivo tutta un'altra vita, voglia di lavorare, di fare, di produrre, perché poi alla fine... E anche lì le mazzate della crisi sono terrificanti, però perché... Ma lì le mazzate della crisi sono nate dalla crisi da altro, banche, ma perché nel sistema fiscale che differenze trova e che vantaggi? Molto semplice, io pago per quello che produco, quindi a seconda del regime fiscale, ma lì non cambia, cioè produco 100, faccio utile per 20, pago le imposte per 20 quando i soldi ce li ho in tasca. E soprattutto in Spagna si paga per saldo, non per anticipi. Si paga per saldo esclusivamente, c'è un'altra cosa. State attenti che voi che dite ai lavoratori dipendenti, chi lavora in proprio, io mi trovo a dover anticipare cifre di reddito che regolarmente non ho realizzato per la faccenda degli anticipi. E gli accertamenti sono fatti anticipo su anticipo, moltiplicando la catena industriale. Questa cosa di Luca è veramente la differenza tra un rapporto franco e un rapporto di presunzione induttiva che non tiene conto del fatto che il ciclo scende ogni tanto. Ecco. Ma guarda, io ho avuto imprese in Italia con degli utili, aziende sane che guadagnavano solo soldi e dovevo andare in banca a chiedere i prestiti di soldi perché non avevo pagato l'imposta. Grazie Luca, perché questa cosa del meccanismo degli anticipi è un meccanismo che dà l'idea di quanto sia avido ed esoso il problema di cassa immediato dello Stato, perché è per questo che si paga per anticipi, quando invece naturalmente lo Stato non ti paga neanche a saldo, perché se ti deve dei soldi non te li fa vedere per anni. Gaetano dalla provincia di Roma, prego. Buongiorno, io volevo invece tornare sul discrimine tra lavoratori dipendenti e autonomi e condivido perfettamente il discorso di Gianola, dicendo che è una vera emergenza sociale e democratica che non hanno, di fronte a uno Stato così esoso, così aggressivo dal punto di vista della tassazione, non hanno gli stessi strumenti, e affrontare il discorso così come lo affronta lei, Giannino, effettivamente può diventare un inno all'evasione. Tutto qua. Io non posso che ringraziare e sapere benissimo che il punto di vista di Gaetano, che ci chiama dalla provincia di Roma, come quello di Rinaldo Genola, che per questo ogni volta lui e colleghi che la pensano come lui abbiamo come contraltare. Io so bene che siete maggioranza in tutti i sondaggi da molti anni in Italia, chi la pensa come voi, e io non posso che tenerne conto e rispettarvi e sapere oltretutto quale sia la buona fede che ispira la vostra posizione, è comunque maggioritaria, in minoranza assoluta ci sono io, questo non c'è dubbio. Io posso semplicemente ripetere che non è un inno all'evasione. Io penso che se non ci uniamo e la piantiamo di dividerci e buttiamo sotto chi chiede solo più denaro di cui fa pessimo uso, io penso che saranno loro invece a metterci sotto a noi. Francesco da Roma, prego. Buongiorno Giannino, sono perfettamente d'accordo con lei. Aggiungo però una considerazione. È difficilissimo per la politica diminuire le spese dello Stato, poiché gli apparati burocratici, in termini di posti per impiegati e funzionari, sia a livello di ministeri che di amministrazioni locali, sono ipertrofici. Da funzione pubblica lo Stato si è tramutato in assistenza pubblica, perché accanto a funzionari ed impiegati effettivamente utili, bravi e capaci, ve ne sono moltissimi che sono lì solo per avere il posto di lavoro garantito. Noi diminuiremo la spesa pubblica, Giannino, solo se equipareremo il funzionario pubblico al professionista, ti chiamo e ti faccio lavorare se ne ho bisogno, e l'impiegato pubblico all'impiegato privato. Altrimenti Francesco, continueremo ad avere uno Stato assistenziale. Però le piante organiche e la politica, che di volta in volta, come i precari nella scuola, la politica li ha accesi per anni diventando le nuove categorie e poi per anni incassando il consenso, regolarizzandoli e dando il posto a tempo determinato. E quindi è sempre la politica poi che è in grado di trovare meccanismi per ridurre. Fino a se non sono d'accordo. Allora, Bortolussi che conclude, ricordo ancora, Tassati e Mazziati, Spellig e Kupfer, al volo su un po' di osservazioni, 2-3 minuti che gli siano venute dall'ascolto di tutte le diverse tesi. Ma io insisto su una cosa, proprio sulla logica, non tanto sulla politica. Ribadisco un concetto: la macchina burocratica dell'ufficio delle entrate, della finanza è molto migliorata, si comporta meglio, eccetera, e io sono per la lotta all'evasione. Però vedete, per certe categorie, come dice Giannola, c'è poco da evadere ormai, visti gli studi di settore che funzionano dal 98. C'era anche chi riesce ancora a fare il furbo, ma siccome il reddito lo stabilisce il principe per scritto, mi spiego, cioè per scritto un principe dice lui quanto devi pagare, e a volte paghi anche di più di quello che dovresti, a volte di meno, ma a volte di più. Allora vede, l'evasione è ancora un problema, e quei dati che dà il Corriere della Sera sono paro paro gli stessi che ti dà l'Istat sull'economia sommersa. Se lei mette le due piantine le sovrappone, corrisponde. Allora vede, il problema però rimane logico. Non è che se è nata prima l'uovo o la gallina, qui il problema è che noi paghiamo già ora più tasse di Francia, Germania, Belgio, Austria, Stati Uniti e Giappone, ma ne paghiamo tante di più rispetto alla Germania, paghiamo 5 punti e 6 punti, due si possono giustificare sulla differenza di entità di stock di debito pubblico, ma gli altri 3,5-4 sono sprechi. La pubblica amministrazione tedesca ha ridotto i suoi addetti negli ultimi anni e c'è un gap, una differenza tra la spesa italiana e quella tedesca, comparandole perché sono dimensioni diverse, di 3,4 punti. Allora il problema è questo, non è essere a favore dell'evasione, assolutamente no. Io sono, fino a che non si risolve il problema, di perseguire l'evasione, tutti devono pagare, ma si ricordi Giannola che il cittadino onesto paga già il 52 e non c'è questa grande differenza tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Sa perché? Perché il 60% di quei lavoratori autonomi sono ex lavoratori dipendenti che non trovano più lavoro, che si devono mettere per conto proprio, esatto. E hanno, oltre al discorso di guadagnarsi da vivere, i rapporti con le banche, con il personale, e arrivano a una pressione fiscale, se lei va a vedere, del 70%, perché pagano molte tasse occulte come le paga il dipendente, esatto. Perché le tasse non sono solo l'IRPEF, l'IVA, e io ribadisco questo concetto, guardi, ci ragioni su, prima viene il discorso, nel momento in cui è chiaro che noi paghiamo più tasse degli altri, il problema della cattiva efficienza, viene prima, dei tanti servizi, viene prima. Sono d'accordo con Bortolussi, è una questione proprio di catena temporale e di effetti temporali che si possono determinare prima e meglio. Però detto questo, la posizione qui impersonata da Rinaldo Giannola dell'Unità è la posizione con la quale inevitabilmente e giustamente bisogna fare i conti. conti lo deve fare l'interlocutore politico, quello sociale nella rappresentanza del lavoro, quello economico nella rappresentanza d'impresa. Non c'è alcuna intenzione da parte mia minoritaria di voler dire c'è una via alternativa. Il problema è quella di convincerci tutti insieme che la cattiva politica va mandata a casa, soprattutto quando poi promette meno spesa e meno tasse e fa esattamente l'opposto. L'opposto, mi dispiace, io da liberale liberista considero che il peggior nemico per chi la pensa come me, minoritario, sia chi promette le mie cose e fa l'esatto contrario, perché mi leva dignità, non divento più credibile, faccio ridere, esattamente come mi rendo conto avrò fatto ridere anche alcuni di voi con questa trasmissione. Grazie a Gianola Bortolussi e a Maisano da Londra, appuntamento a domani, linea al giornale radio.